Buonasera a tutti i radioascoltatori e gli amici di Giro di Boa, vi parla Michele da Bruxelles per una nuova puntata. Io passo subito la linea ad Annalisa che introduce la puntata di oggi. Grazie Michele, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa, qui a Bruxelles, e buonasera Michele, soprattutto bentornato in regia a Giro di Boa. Buonasera, grazie, ci sei Grazie mancato per 3 mille, mesi. anche voi. E anche in collegamento dovrebbe esserci anche Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa e un grandissimo bentornato a Michele. Dunque, questa sera a Giro di Boa, per un certo aspetto, riprendiamo un tema di cui ci siamo occupati di recente. I nostri radioascoltatori si ricorderanno che qualche settimana fa, a Giro di Boa ci siamo occupati della vicenda della cooperante italiana Rossella Urru, rappresentante del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli nei Campi Sahrawi in Algeria, che è stata rapita lo scorso ottobre insieme a due colleghi spagnoli. E cogliamo l'opportunità ancora una volta per esprimere il nostro augurio che Rossella possa essere liberata al più presto. Questa sera però a Giro di Boa vogliamo approfondire la vicenda del popolo Sahrawi, popolo costituito da gruppi tribali tradizionalmente residenti nelle zone del Sahara occidentale, che già nel corso della dominazione della Spagna avevano cominciato negli anni 30 a reclamare la propria indipendenza. Sull'area però aveva avanzato pretese anche il Marocco, ed è per questo che queste popolazioni hanno conosciuto grandi difficoltà per realizzare le loro ambizioni e vedersi riconosciuti su un piano internazionale. La Spagna ha abbandonato l'ex colonia nel 1975, a questo ha fatto seguito l'invasione da parte del Marocco, a cui ha fatto seguito l'esodo di numerosi combattenti e profughi Sahrawi in Algeria. Nella città di Tindouf, in Algeria, ci sono quattro campi profughi che accolgono circa 175.000 persone. Un popolo, quello Sahrawi, e il suo diritto all'autodeterminazione, di cui non si parla molto nei media. Questa sera a Giro di Boa quindi approfondiremo questa tematica, cercheremo di darle risalto, di dare quindi risalto a questa vicenda, alle rivendicazioni di questo popolo, con l'aiuto dei nostri ospiti in collegamento telefonico. E Alessandra, ti passo la parola per l'introduzione del primo ospite di questa sera. Il primo ospite di questa sera è già in collegamento con noi, si tratta di Omar Mi. Omar, ci senti? Sì, buonasera, buonasera. Buonasera Omar, grazie mille per aver accettato il nostro invito per partecipare alla nostra Grazie a voi. trasmissione. Omar è rappresentante del Fronte Polisario in Italia. Il Fronte Polisario è un'organizzazione militante e un movimento politico attivo nel Sahara occidentale. Il fronte rappresenta il popolo Sahrawi al fine di ottenere la realizzazione del diritto all'autodeterminazione. Omar, avrei subito una domanda. Annalisa prima parlava delle caratteristiche del popolo Sahrawi e tu sei un rappresentante del popolo, visto che appunto sei membro del Fronte Polisario. Ci potresti dare qualche notizia sul popolo Sahrawi, dove siete localizzati ora, quanti siete? Annalisa parlava dell'Algeria, ma ha nominato anche il Marocco. Com'è l'attuale dislocazione, brevemente, visto che non abbiamo tantissimo tempo. Certo. Io intanto vi ringrazio la vostra radio ovviamente a lei per dedicare questa serata alla questione del Sahara occidentale e alle rivendicazioni del popolo sahrawi. Allora, per dirvi, il Sahara occidentale è un'ex colonia spagnola, lì gli spagnoli sono rimasti per un secolo, dal 1884 fino al 75. Quel territorio oggi, ancora dopo 40 anni, è iscritto nell'agenda delle Nazioni Unite, dell'Assemblea Generale, come un territorio non autonomo. Il cui popolo se le deve applicare la 1514, quindi la risoluzione dedicata alle Nazioni Unite, il diritto alla terminazione. Il popolo Sahrawi è un piccolo popolo, non arriva neanche al milione. Vive in un territorio che si chiama, prima si chiamava Sahara Occidentale, spagnolo, adesso si chiama Sahara Occidentale. su un territorio di 265.000 chilometri quadrati, si trova nel Nord Africa, al sud del Marocco, al west dell'Algeria e a nord della Mauritania, fronte all'isola di Canaria. E dal 1975, quando gli spagnoli si sono andati, senza fare quello che la comunità internazionale, in primo luogo le Nazioni Unite, cioè organizzare un referendum e fare una decolonizzazione normale, nel quale il popolo del Sahara occidentale doveva essere consultato su che cosa voleva fare della sua terra, diventare un paese indipendente o rimanere sotto l'occupazione spagnola. Non fu così. Il Marocco, uno dei paesi vicini al Sahara occidentale, insieme alla Mauritania, hanno cominciato a fare delle rivendicazioni territoriali su questo territorio. La Spagna, in quel periodo, ha invitato il Marocco e la Mauritania a Madrid il 14 di novembre del 1975 e tutti e tre hanno fatto un accordo. È rimasto nella storia Sahrawi come gli accordi di Madrid. 14 novembre 75, tutti e tre hanno diviso il territorio del Sahara occidentale, la parte nord al Marocco e la parte sud del territorio alla Mauritania. A cambio, per la Spagna, il 30% delle risorse naturali, quindi dei fosfati, 20 anni per pescare nel territorio e basi militari per difendere le isole di Canarie. Per i Sahrawi, ovviamente, cominciò un nuovo dramma. Noi in quegli anni, nel 75, insieme alla Nazione Unita, aspettavamo una decolonizzazione normale. Cominciò una guerra lunga che ha durato 16 anni, dal 75 fino agli anni 90. Dopo, ovviamente, gli anni 90, le Nazioni Unite si interessa un'altra volta. Devo dire che tutti gli anni, dagli anni 60, tutti gli anni, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come il Consiglio di Sicurezza, approvano delle risoluzioni che ribadiscono la stessa cosa, che il territorio del Sahara occidentale è un territorio non autonomo, al cui popolo ha il diritto alla terminazione. Negli anni 90 però le Nazioni Unite porta avanti una mediazione tra il Fronte Polisario, che è il movimento di liberazione che rappresenta il popolo sahrawi, e il Marocco, che è il paese che occupa il territorio del Sahara occidentale. Il risultato di quella mediazione negli anni 90 è la sottoscrizione di un accordo di pace. Cioè, quindi si ferma la guerra e per la prima volta il Polisario e il Marocco, insieme alle Nazioni Unite, sottoscrivono questo piano, che ha la finalità un'altra volta di chiedere attraverso un referendum di determinazione alla popolazione del Sahara occidentale, quindi al popolo del Sahara occidentale, se volete essere indipendenti o integrato in Marocco. Il Polisario e il Marocco sottoscrivono questo accordo a New York, e ferma quindi un cessato il fuoco nel settembre del 91, e il Consiglio di Sicurezza e le Nazioni Unite, per applicare quell'accordo, creano una missione che si chiama MINURSO, missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale. Questa missione si insedia a quella data di settembre del 91 con la promessa fatta al popolo sahrawi che sì, il Marocco e il Polisario accettano questo piano e sottoscrivono questo piano, fermano la guerra, le Nazioni Unite avrebbe realizzato e organizzato quel referendum nel febbraio del 92. Allora, dal 92 a oggi siamo al 2012, quel referendum promesso dalla comunità internazionale e accettato dal Marocco e dal Polisario come soluzione del conflitto coloniale ancora aperto nel Sahara occidentale, quel referendum ancora non si è realizzato. È vero che le Nazioni Unite si trovano nel territorio del Sahara occidentale ancora con la loro missione che si chiama questa MINURSO, missione per il referendum nel Sahara occidentale, però è vero anche dall'altra parte che non c'è stata nessuna pressione, non dico bombardare al Marocco, ma nessuna pressione sul Marocco perché accette che questa soluzione che aveva sottoscritto con noi negli anni 90 sia concretizzata nel territorio del Sahara occidentale. Omar, scusa se ti interrompo, ma qual è quindi il ruolo al momento della missione MINURSO? Che cosa stanno facendo? Allora, esattamente, allora la missione di MINURSO ha ancora questo compito, di realizzare quel referendum. E l'unica cosa che ha fatto, e non è di poco ovviamente, è che controlla che non ci sia la guerra. Vero, Polisario ormai dal 90 ha scelto la via pacifica, quindi la MINURSO composta di 300 persone, credo la maggioranza sono di caschi blu, quindi che hanno questo compito di controllare che non ci sia la guerra, che non ci sia una violazione del cessate il fuoco proclamato lì. Però dall'altra parte però è l'unica missione, e questa è una grande contraddizione, l'unica missione delle Nazioni Unite che non ha la delega per il controllo e la supervisione e la denuncia della violazione dei diritti umani nel territorio. Cosa che noi, insieme a molte organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani, e anche il Parlamento Europeo nel dicembre del 2010, chiedono alla comunità internazionale, al Consiglio, che allarghi il mandato di questa sua missione anche alla supervisione e al controllo dei diritti umani. Omar, allora, questo da una parte, ovviamente dall'altra parte c'è un negoziato in corso. Ma Omar, volevo fare una domanda prima di parlare del negoziato in corso. Volevo sapere qual è il ruolo del Movimento di Liberazione del Fronte Polisario, visto che tu ne fai parte, e qual è il tuo ruolo all'interno del Fronte Polisario? L'organizzazione dove ha sede e quali sono gli strumenti che utilizza per portare avanti questa lotta all'autodeterminazione, e eventualmente siete considerati un attore di rilievo, una controparte per l'ONU e per le potenze locali? Allora, il Polisario è il movimento di liberazione, come ho detto prima, nato negli anni 70, ovviamente per combattere la colonizzazione spagnola del Sahara occidentale, e chiedeva ovviamente la indipendenza del Sahara occidentale. I Sahrawi hanno creato questo movimento di liberazione, che è un movimento che include tutte le sensibilità e tutte le opinioni Sahrawi, con un denominatore comune che è quello ovviamente dell'autodeterminazione. Tutti siamo d'accordo perché il Polisario ci rappresenta per arrivare alla determinazione. Una volta arrivato lì, il Polisario rimane come un patrimonio del popolo sahrawi, e si fonderanno o si creeranno delle forze politiche nel territorio del Sahara occidentale. Allora, il movimento Polisario è riconosciuto a livello internazionale come rappresentante del popolo sahrawi, in primo luogo dal Consiglio di Sicurezza e delle Nazioni Unite come interlocutore, come parte nel processo di pace nel Sahara occidentale. Negli anni 76, quindi il 27 di febbraio del 76, il Polisario proclama la nascita della Repubblica Sahrawi. Quel giorno lì era la giornata ufficiale nella quale l'Spagna lascia il territorio. Il Polisario non accetta l'occupazione o l'invasione marocchina e proclama la nascita della Repubblica Sahrawi. Questa Repubblica, che è la Repubblica Sahrawi, oggi è riconosciuta da più di 80 paesi nel mondo. La maggioranza sono africani di Latino America e dell'Asia, e anche la Repubblica Sahrawi fa parte e membro fondatore dell'Unione Africana, come Stato ovviamente indipendente. Allora, la richiesta principale del Polisario, che all'inizio era un movimento politico militare armato, e che negli anni 90, quindi da settembre del 90, è diventato un movimento politico soprattutto, che chiede che il popolo del Sahara occidentale possa esprimersi sul suo futuro, il Polisario rimane il grande interlocutore, un grande rivendicatore di che il popolo sahrawi deve esprimersi attraverso un referendum su che cosa vuole fare della sua terra. Il movimento Polisario ha un governo in esilio che si chiama, ovviamente, come ho detto prima, la Repubblica Sahrawi. La Repubblica Sahrawi ha dei ministeri, c'è un Parlamento eletto direttamente dai cittadini sahrawi, e ha il suo ministero che ha nei paesi che riconoscono la Repubblica Sahrawi delle ambasciate, direi ambasciatori, in Europa che non riconoscono la Repubblica Sahrawi ha delle rappresentanze. Una di queste rappresentanze, le prime rappresentanze in Europa, è stata ovviamente l'Italia, la Spagna, la Francia, il Belgio, la Gran Bretagna, tutti i paesi europei, ci sono delle rappresentanze del popolo Sahrawi, quindi del fronte polisario in Italia. Questa rappresentanza ormai dal 1976 esiste, io sono rappresentante da quasi 8 anni. Omar, scusami se ti interrompo, quindi nessun paese dell'Unione Europea attualmente riconosce la Repubblica Sahrawi, giusto? No, lo ha fatto la Jugoslavia in suo tempo, però è pretesto, quando gli anni 90 noi avevamo chiesto all'Europa e ai paesi europei di riconoscere la Repubblica Sahrawi, tutti hanno detto no, dobbiamo aspettare che si faccia il referendum e così ci pronunceremo. Ovviamente l'Unione Europea e i paesi europei riconoscano il fronte polisario come interlocutori nel processo di pace, però non riconoscono la Repubblica Sahrawi in attesa di che il referendum si realizzi. Però se non si fa niente perché si realizza il referendum, ovviamente questo riconoscimento va avanti. Una cosa abbastanza curiosa è il fatto che sì, di questa crisi non se ne parli molto nei media, o comunque nei media italiani ed europei. Secondo te qual è la ragione principale per questa, diciamo così, dimenticanza? Vabbè, ci sono diverse ragioni, io penso che dal punto di vista del diritto la questione di Sahrawi è un conflitto di decolonizzazioni molto chiaro, con le risoluzioni chiarissime da parte della comunità internazionale. Però dall'altra parte non è una questione che si vende. Il Sahrawi o il Polisario non è un movimento terrorista, non è un movimento fondamentalista, non ha un progetto di costituire una repubblica talibana nel Sahara occidentale. Il movimento Polisario non fa delle azioni violente per far conoscere ovviamente la sua casa. Questo non si vende la stampa, purtroppo. Queste sono le ragioni. Poi, dall'altra parte, bisogna anche riconoscerlo, e che ci sono troppi interessi, soprattutto da uno dei paesi influenti, importanti dell'Unione Europea, che è la Francia, e il Marocco. Il Marocco è la chasse gardée della Francia e del nord. E tutto è anche una buona destinazione turistica, nessuno ha l'interesse o vuole attaccare questo paese, che bisogna soltanto leggere e ascoltare le denunce, i rapporti di Amnesty International, Human Rights, sulla violazione dei diritti umani nel territorio del Sahara occidentale, su tutto quello che fanno di corpi di sicurezza contro la popolazione sahrawi nei territori occupati del Sahara occidentale. Omar, hai accennato al ruolo quindi della Francia. Io ti volevo porre come domanda appunto come si posizionano lì le grandi potenze su questa questione, quali sono appunto gli interessi che impediscono una soluzione di questa vicenda, o quantomeno che si arrivi ad un referendum. Quindi hai parlato del ruolo della Francia, se ti posso chiedere qual è la posizione di altri paesi, immagino per esempio la Spagna, gli Stati Uniti. Allora, tutti questi paesi, la Francia, Spagna, Stati Uniti, eccetera, quando si discute la questione del Sahara occidentale, a livello delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza, tutti sono d'accordo che bisogna trovare una soluzione gradevole ai due protagonisti, Marocco e il Polisario, che questa soluzione deve garantire il diritto alla terminazione. Però è vero anche che chi ha fino adesso ostacolato l'avvenimento di questa soluzione attraverso il referendum è stato il governo francese. Perché dico questo? Perché quando il Consiglio di Sicurezza cerca di elevare il conflitto del Sahara occidentale dal capitolo 6 al capitolo 7, la Francia si impone. Quando il Consiglio di Sicurezza cerca di includere il mandato o il controllo dei diritti umani nel mandato di Dublino Rosso, la Francia si oppone. Questo è la grande contraddizione di un paese che ha una responsabilità così forte nel Consiglio di Sicurezza e anche noi constatiamo che ha una politica di doppia misura, dei paesi di misura, quando si tratta per esempio della Libia, di sì, bisogna difendere la popolazione civile, quando si tratta della Siria, sì, bisogna difendere la Siria, ma quando si tratta della violazione dei diritti umani nel Sahara occidentale contro il Marocco, allora lì abbiamo un'altra Francia, quella Francia neocoloniale. Finché non cambia questa posizione, la Francia non cambia questa posizione, la soluzione ovviamente è il Marocco continuerà a essere intransigente, continuerà a essere un paese che non vuole la soluzione pacifica, che non vuole ovviamente la soluzione democratica. Gli altri paesi europei, tutti, io penso la Gran Bretagna, la Germania, la Spagna stessa, l'Italia, tutti sono paesi che sostengano la soluzione legale nel territorio del Sahara occidentale, che questa soluzione legale deve essere attraverso un negoziato diretto tra il movimento di liberazione Polisario e il Marocco, e che questa soluzione deve garantire il diritto alla terminazione. Però tutti questi paesi ovviamente non fanno abbastanza per ragioni economiche ovviamente o di interessi perché questa soluzione venga. Omar, siamo arrivati in conclusione al tempo che potevamo dedicarti. Annalisa, hai domande? Io non ho più domande, Alessandra, da parte mia. Dunque, non ci resta che salutarti, Omar, farti il migliore in bocca al lupo per te, ma soprattutto per il popolo sahrawi, che l'autodeterminazione sia un sogno raggiungibile. Grazie a voi. Vorrei approfittare anche di ricordare con grande ovviamente desiderio che tra poco, in breve, possa un'amica del popolo sahrawi sequestrata in campi di rifugiati sahrawi e gli altri amici della Spagna possa tornare libera e presto a casa tua e tra di noi. Omar, anche da parte mia, da Annalisa qui a Bruxelles, un grande ringraziamento per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera e tanti auguri per il tuo lavoro e per il futuro del popolo sahrawi. Grazie mille. Facciamo ora una pausa musicale. Buonasera a tutti, eccoci di ritorno alla puntata di questa sera di Giro di Boa. Io passo immediatamente la linea ad Annalisa. Grazie Michele e bentornati cari radioascoltatori all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera a Giro di Boa stiamo cercando di approfondire la vicenda del popolo sahrawi, un popolo residente nelle zone del Sahara occidentale che già nel corso della dominazione spagnola negli anni 30 aveva cominciato a reclamare la propria indipendenza, un'area sulla quale però il Marocco aveva avanzato pretese, invasione del Marocco, esodo di profughi e di combattenti sahrawi da questo territorio all'Algeria. Ricordiamo, in Algeria, nella città di Tindouf, ci sono 4 campi profughi che accolgono circa 175.000 persone. Abbiamo intervistato nella prima parte di questa trasmissione Omar Mi, rappresentante del Fronte Polisario in Italia. Il Fronte Polisario è un'organizzazione e militante, movimento politico attivo nel Sahara occidentale che appunto si adopera per ottenere la realizzazione del diritto all'autodeterminazione per il popolo sahrawi. E continuiamo ad approfondire questo tema con la seconda ospite in collegamento questa sera a Giro di Boa. La seconda ospite in collegamento questa sera è Gaia Pellegrini Bettoli. Gaia, ci senti? Sì, buonasera, contenta di essere di nuovo con voi. Buonasera Gaia, contenta di essere con noi e grazie mille per aver accettato. Dicevo contenta in quanto Gaia, come i nostri amici radioascoltatori si ricorderanno, è un'amica di Giro di Boa, è stata ospite a Giro di Boa già diverse volte su diversi argomenti. Dunque, Gaia, che ha lavorato come consulente in ambito comunicazione a Bruxelles, di ritorno dall'Algeria, dove ha svolto interviste con membri del Fronte Polisario, al seguito delle quali ha pubblicato alcuni articoli sulla vicenda di Rossella 1 a metà marzo e più recentemente sul popolo Sahrawi e sulla sicurezza nel Sahel in generale. Gaia, come ho appena detto, sei tornata da poco da un periodo in Algeria nei campi di Tindouf, dove hai realizzato diverse interviste, dove hai avuto modo di conoscere i ministri della Repubblica Araba Sahrawi, tra cui il primo ministro, se non sbaglio, e il ministro degli affari esteri. E quali sono le aspettative che hai potuto cogliere da parte di questi ministri, di questo governo, di questa repubblica che esiste ma di cui appunto non si ne sa molto? Sono stata molto colpita da vari aspetti. Prima di tutto, parlando con i diversi interlocutori, iniziando dal primo ministro, forse è stata la mia intervista diciamo più formale, che ha toccato sul tema ovviamente del rapimento e il fatto che questo per loro sia il loro 11 settembre, però poi ci siamo anche addentrati nel tema del loro 13° congresso, che per il governo del Fronte Polisario è stato estremamente importante, l'ha avuto a dicembre, perché ci sono effettivamente dei cambiamenti all'interno del Fronte Polisario. C'è stata per esempio la sostituzione del ministro per la sicurezza, ovviamente in seguito ai rapimenti. Ci sono state varie misure di sicurezza che sono state prese, come il coprifuoco, non si può circolare dopo le 11 di notte, però diciamo che ogni persona con la quale ho parlato è riuscita, diciamo, a darmi un apporto diverso. Forse una delle interviste più, se potete perdonare il termine, controverse per me è stata quella con il ministro degli affari esteri, che è Mohamed Salem Oud, e quello che ho trovato, non voglio dire provocatorio, ma forse un monito per tutti i paesi occidentali, è stato il fatto che nei recenti mesi, come vediamo, tutti gli sviluppi nel Sahel stanno creando una situazione di grande pericolo, mischiato al narcotraffico, al traffico delle armi. La situazione è sempre meno calma nella zona, e questi paesi insieme all'Europa hanno ottenuto vari summit, vari meeting per cercare di mantenere, diciamo, lo status quo, uno status quo che vorrebbe anche quindi dire non si va avanti con questo referendum per l'autodeterminazione del popolo Sahrawi. E la risposta che io ho ricevuto invece dal ministro degli affari esteri è stato: l'Occidente sbaglia se pensa di poter contenere la sicurezza evitando il problema del referendum, questo non farà altro che peggiorare le cose. E lui si è rivolto direttamente ai media italiani facendo questo monito, proprio che sia il narcotraffico che le questioni di sicurezza e di rapimenti non farebbero che aumentare. E un'altra persona che mi ha colpito molto invece, e che è molto sintomo di questo inizio forse di un potenziale scisma, o forse scisma è un termine un po' troppo forte, ma di un forte desiderio della popolazione giovanile di fare qualcosa, di partecipare a questa primavera araba, di riprendere le armi, visto che più di 20 anni di negoziati, come abbiamo visto recentemente fra l'11 e il 13 marzo a New York, non hanno dato luogo a nulla per l'ennesima volta. E quello che mi ha detto il rappresentante, il segretario generale di quello che loro chiamano l'UGESARI, l'Unione Studentesca, Ahmet Labid Abdi, è stato proprio questo. Mi ha spiegato come Chomsky ha identificato l'inizio della primavera araba, realmente iniziata con il popolo Sahrawi nel 2010, nel novembre. E il problema è che non è stato possibile per noi, c'è stato un assemblaggio di 20.000 Sahrawi fuori dalla loro capitale nei territori occupati di El Aaiun, 16 chilometri, che poi è stato interrotto bruscamente dai militari marocchini, e ci sono ancora molte persone nelle carceri marocchine oggi in attesa ancora di un giudizio. E quello che lui mi spiegava è per noi non può funzionare quello che ha funzionato, diciamo, a Tunisi o in Egitto dal punto di vista di almeno di iniziare una rivoluzione pacifica. Perché? Perché la capitale è Rabat e quindi non avrebbe lo stesso effetto. E quindi il monito e quello che è stato detto e non detto tra le righe è che comunque c'è una forte voglia di far cambiare le cose e forse anche una disillusione con l'Occidente, con le Nazioni Unite, con la MINURSO e forse un po' anche con la loro vecchia generazione che nonostante le promesse non è riuscita e nonostante i tentativi a portare a termine questo referendum. Gaia, hai passato, come dicevamo nell'introduzione, un periodo nei campi profughi di Tindouf, di cui accennavo nell'introduzione, 4 campi profughi, se non sbaglio, che ospita da 175.000 persone. Ti vorrei chiedere come sono organizzati, come è regolato l'accesso da parte dell'Algeria, sono in territorio algerino, come vivono, immagino che dipendano per larga parte dal supporto e dall'aiuto, per esempio, di organizzazioni non governative, come per esempio quella per cui lavora Rossella Urru, come abbiamo già ricordato, la cooperante italiana rapita lo scorso ottobre. Ecco, se ci puoi descrivere un attimo com'è la situazione in questi campi, che cosa hai visto e anche se c'è qualcosa in particolare che ti ha colpito sicuramente nelle varie conversazioni che avrei avuto con le persone nella vita di tutti i giorni, quindi al di là delle interviste che hai fatto con i ministri. Ma vorrei premettere che io non ho, diciamo, un modello di paragone, perché era il primo campo profughi al quale mi sono mai recata in vita mia, ma è un campo profughi, anzi sono 4 differenti campi profughi che sono lì da più di 35 anni ormai e nascono in un territorio totalmente brullo, dove letteralmente non cresce un arbusto, a parte forse Dakhla che ha un'oasi, nel resto dei campi non c'è veramente nulla, quindi forse la cosa che mi ha più impressionato, gli aspetti che mi hanno più impressionato sono certamente 2. Il primo, la determinazione di questo popolo, che l'Algeria li abbia diciamo gentilmente ospitati nel loro deserto, sì, però poi se la sono più o meno dovuta cavare da sé, in un territorio assolutamente aspro, ed è veramente impressionante vedere tutto quello che hanno costruito e stanno costruendo ancora. È un popolo in crescita. Vorrei anche far riferimento al dato che avete dato poco fa dei 175.000 abitanti. Quando si chiede ai vari ministri stessi i numeri, e forse l'unica domanda alla quale hanno difficoltà di rispondere, i censimenti stessi delle Nazioni Unite vengono rivisti in continuazione, perché questi numeri non sono mai chiari, questo sia per i campi profughi in territorio algerino, sia che territorio occupato del Sahara occidentale, perché non dimentichiamoci che sono praticamente fragmentati in 3 parti, anche se nel territorio liberato che sta nel mezzo con capitale Tifariti non c'è quasi nessuno. Il secondo aspetto anche che mi ha colpito è la situazione dei giovani, perché comunque molti dei giovani hanno studiato all'estero, hanno avuto un'esperienza fuori, perché vengono spesso mandati in Spagna, in Italia, in altre, a Cuba molti, almeno perlomeno durante l'estate, quindi molti di loro parlano sia lo spagnolo o il francese, e diciamo che il livello di alfabetizzazione è estremamente alto, e questo forse è quello che fa più impressione, perché crescono in una realtà dove vengono preparati, o perlomeno se uno lo paragona a altri livelli di alfabetizzazione del continente africano, ma poi non hanno vere prospettive. Cosa fanno dopo? Gaia, prima dicevi che il ministro della sicurezza è stato sostituito anche in seguito ai rapimenti. Io volevo chiederti, hai avuto modo di discutere o di fare un'intervista al ministro della sicurezza? No, non ho potuto incontrarmi con lui. Ok, no, io volevo sapere, leggendo il tuo articolo si capisce chiaramente il problema della sicurezza, si intravede il problema della sicurezza nel Sahel. Tu fai riferimento al traffico di cocaina e di hashish che attraversa il Sahel per giungere in Europa. Una seconda causa problematica per il Sahel è senza dubbio anche l'infiltrazione di Al-Qaeda. Questa è una percezione che abbiamo solo noi in Europa, oppure anche loro sanno di essere in pericolo? Ma forse la frase più comune che io ho sentito quando si parla di questo tema è una situazione complessa, è quello che tutti amano dire, perché effettivamente penso che molti in Occidente abbiamo grande difficoltà a capire esattamente cosa sta succedendo nella zona, e penso che sia una difficoltà che hanno anche i paesi stessi. Abbiamo visto infatti il presidente del Mali, o dovrei dire l'ex presidente a questo punto, visto che c'è stato il coup nel frattempo, Touré, che si era scontrato in maniera abbastanza diretta, almeno in un primo momento, con il fronte Polisario, quando avevano cercato di regolare apparentemente alcuni conti, che non è chiaro se fossero questioni di droga, inseguimenti. Comunque in tutta quella zona il gruppo che sembra essere più presente al momento è il gruppo del Mujao, che poi è il gruppo per la liberazione del Sahel islamico, che è lo stesso che ha dichiarato di aver fatto, di aver commesso poi i rapimenti dei tre cooperanti in questi campi. E sicuramente sono vari fattori che si intrecciano. Quello di cui sappiamo e che posso dire con certezza è che comunque Al-Qaeda si è distanziata da questo movimento del Mujao. Sono due entità completamente distinte, e penso che sia importante in Europa che teniamo questo ben chiaro, perché vediamo comunque che in generale Al-Qaeda sembra aver perso comunque abbastanza potere e potere decisionale. E ci sono varie frammentazioni, e soprattutto nel Sahel ci sono molti interessi, come abbiamo visto per esempio i Tuareg nel nord del Mali, che prima erano stati assoldati da Gheddafi, che poi sono andati via poco prima dell'assassinio di Gheddafi, e sono andati via almeno in 2000 o 3000 con molte armi. Quindi c'è tutta una situazione di interessi che si incrocia, si contrasta a volte e si supporta a volte a secondo degli interessi. Gaia, vorrei ritornare ad una cosa su cui hai accennato prima, quando si parlava dei campi profughi e dell'Algeria. Un'Algeria quindi che non li ha sostenuti più di tanto. Dicevi che questi campi profughi, si sono organizzati da sé senza più di tanto supporto da parte del paese. Se puoi chiarire questo aspetto. No, ti ringrazio di aver sottolineato questo. No, l'Algeria penso che sia fondamentale per i Sahrawi, non intendevo assolutamente questo. Però come occidentale, quando uno arriva in un deserto dove non cresce un solo arbusto, non ti sembra che ti abbiano fatto un gran piacere ospitarti lì, però è importantissimo ricordare il ruolo, soprattutto dal punto di vista di un bilanciamento delle varie politiche contro il Marocco, e l'Algeria è stata ed è essenziale, al punto che vediamo negli stessi negoziati che hanno avuto luogo tra l'11 e il 13 marzo a New York, non c'erano solo il Marocco e il fronte Polisario, ma c'erano anche altri paesi come la Mauritania e l'Algeria. Questo da solo è un sintomo dell'importanza. Poi ci sono anche molti studenti che studiano all'università in Algeria, quindi assolutamente l'apporto dell'Algeria è importante. Se parliamo dal punto di vista della difesa, il fronte Polisario tra virgolette beneficia degli armamenti algerini che praticamente non vogliono, che sono i vecchi armamenti che hanno ricevuto dalla Russia. Però assolutamente dire che non vengono supportati dall'Algeria è assolutamente scorretto, mi scuso se è stato un commento non chiaro. Gaia, io avrei un'ultima domanda da parte mia da farti, la stessa domanda che abbiamo posto pochi minuti fa a Omar. Qual è secondo te una delle principali ragioni, o la principale ragione, per cui c'è così poca risonanza nei media occidentali rispetto a questa tragedia? Ma sicuramente non è sull'agenda di molte nazioni. Una delle nazioni che non è europea, ma che ovviamente ha sempre un peso, gli Stati Uniti, che tendono ad appoggiare molto di più il Marocco. Sono sicura che Omar vi ha già parlato della Francia. L'interesse viene tenuto molto a bada, c'è molta censura e purtroppo lo abbiamo visto proprio dal fatto che quando io ho sentito di questa prima dimostrazione che ha avuto luogo tra l'ottobre e il novembre del 2010 a Gdeim-Izik, fuori da El Aaiun, nei territori occupati, quello a cui facevo riferimento prima, che Chomsky ha definito il vero inizio della primavera araba, quasi nessuno in Europa ne ha parlato. Ne ha parlato forse l'eurodeputato Panzeri a Strasburgo, gli viene data la parola per 10 minuti sulla questione, però anche l'Europa non si è voluta troppo spendere, e questo perché? Perché ci sono enormi interessi legati al commercio, alla pesca col Marocco, interessi che sembravano interrotti perché il 14 dicembre dello scorso anno del 2011 l'Europa ha detto no, non andremo più avanti finché i Sahrawi stessi non possono beneficiare della pesca, e non si può soprattutto risolvere la questione di avere un referendum di autodeterminazione. E però per vedere solo che 2 mesi dopo e con una legislazione leggermente diversa è tutto ritornato, è tutto di nuovo in discussione. Quindi gli interessi sono fondamentalmente economici. Io immagino che per quanto riguarda il Marocco almeno, ma sarebbe interessante forse un'altra volta avere anche la loro prospettiva, sia anche una questione legata al re del Marocco, per questo il grande Marocco, è una questione semplicemente di prestigio. Però ripeto, per quanto riguarda la zona dei territori occupati c'è anche proprio un notevole apporto economico, che per esempio tutto quello che loro guadagnano dalla pesca da sé serve per pagare tutti i costi di questo lungo muro che loro hanno costruito per tenere fuori i Sahrawi, che è 2700 km di lunghezza, pieno di mine. Io, Gaio, ho un'ultima domanda qui dallo studio di Bruxelles. Ne hai già accennato adesso nella tua risposta, ti sei riferita all'onorevole Panzeri. Come abbiamo detto anche in introduzione, hai lavorato per diversi anni a Bruxelles, conosci il mondo delle istituzioni, come detto hai già accennato parzialmente alla risposta a questa domanda. Come l'Unione Europea sta seguendo questa vicenda? C'è qualcuno in particolare che se ne interessa nelle istituzioni? Qualche figura istituzionale, parlamentare? Ma a livello di parlamentari europei sicuramente Panzeri si è speso molto, l'eurodeputato italiano Milana anche, ci sono stati altri eurodeputati come Willy Meyer che ha cercato di andare nei territori occupati in Marocco e apparentemente ha avuto grosse difficoltà con le autorità marocchine, quindi a questo punto vediamo proprio un esponente dell'Unione Europea che ha dei problemi. Quindi neanche un cittadino comune che cerca di entrare in quelle zone. Per quanto riguarda lo schieramento dei partiti, almeno per quanto riguarda l'Italia, la questione Sahrawi è sempre stata associata alla sinistra e al socialismo, per quanto riguarda invece più la dimensione europea, per parlare degli inglesi, per esempio i Tories sono certamente a favore della posizione Sahrawi per una risoluzione e per avere veramente finalmente questo referendum di autodeterminazione. Non dimentichiamoci anche che c'è stato comunque quello che gli inglesi chiamano una advisory opinion nel 1975 del International Court of Justice, che purtroppo essendo un advisory opinion non è obbligatoria, ma che diceva che bisognava assolutamente dare la possibilità a questo popolo di avere un referendum. Bene, Gaia, siamo purtroppo giunti in chiusura, è stato il tempo che abbiamo a disposizione. Da parte mia un caloroso ringraziamento ancora una volta per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera. Un ultimo commento da fare? Sì, vi ringrazio e come italiana spero che Rossella torni a casa presto e auguro molta forza alla sua famiglia, che si sta comportando in maniera fantastica. Grazie mille Gaia, e ovviamente ci uniamo anche noi, il Giro di Boa, ma ovviamente anche il gruppo italiano di Radio Alma a questo tuo desiderio. Buona serata Gaia e in bocca al lupo. Crepi. Grazie, bocca al lupo. Buonasera. Grazie a Michele in regia, e per il, Michele grazie per il tuo contributo tecnico questa sera. E grazie a voi. Ascoltatori, diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Buona serata a tutti.